convinto, visto che siamo in zona. Si sente già dal segnale che non è in etere, troppo lontano. Allora, mi arrivi, come mi arrivi da Alghero? Sì, 9 più 10, non so in che zona, sì. Zona con Forano in allontanamento. Allontanamento per Alghero? Sì, signore, confermo. 9 più 10, radio super 5, nessun problema. Va bene, dai, allora. Già va bene. No, io bene o male quando sono... sono in barra mobile, già c'è sempre un apparato acceso, sento sempre un sacco di traffico, tra camionisti su 5, qualcuno su 10, però la mia fregatura è sempre la stessa, ne sento uno su 2 e non entro mai. Lo so, il problema è sempre quello, magari si sente una parte delle persone e gli altri no, e quindi è un casino. Per il resto tutto bene, sa? Sì, tutto regolare. Se volevo approfittare, dovevo fare un paio di commissioni rapide, infatti sono salito proprio alle 18.30, ho fatto un tocco e fuggi e siamo già lì dentro con la 50. Adesso di corsa a casa a mangiare. Già qua, saluto anche la 350. Io qua vado, finalmente ho aperto tutto perché era tutto chiuso stasera, c'era un caldo allucinante, infatti le radio erano tutte spente, le ho accese adesso, sono uscito a prendere una boccata d'aria con un amico, siamo rientrati poco fa, e adesso si sta un po'... si respira, insomma, dice che ha dato maestrale per domani, speriamo bene. Bisogna vedere, vabbè, maestrale già tende ad essere più fresco, però in effetti sì, l'aria è un po' respirabile, eravamo in un negozio, dentro era climatizzato, come siamo usciti fuori, un po' l'impatto è stato interessante, però in macchina, climatizzatore, vetri chiusi. Io tutti i giorni così, alla fine sono tutto a dolori, guarda, perché non sto sempre in macchina, quindi sali e scendi, alla fine mi sta crepando, però alternative non ce ne sono, perché altrimenti non si riesce neanche a guidare. Un attimo solo, Fai, non c'è problema. Ok, rientro, era abbastanza rapida la cosa. Dove sei adesso? Buonasera, Claudio, buonasera. microfono non va per niente bene con quell'apparato. Infatti per quello ti ho passato la palla, Claudio, perché in effetti non avevo capito bene cosa, così un po' quello che stava dicendo. Gianni, tu mi senti ancora? Sì. Ecco, ritirato tutto com'era, mi senti bene, Sandro? Un attimino meglio, non sei squillante ma almeno non sei cupo, adesso distingo bene tutto quello che dici. Bene, basta una volta e basta, no? Non c'è bisogno di stare lì a modificare. di come sto arrivando e com'è la radio e quanto ti sto arrivando e guarda così e guarda qua. Alla fine, per me che do sempre i controlli e sono sempre disponibile con tutti, mi diventa una cosa un po' monotona, capito? E quindi preferisco fare QSO, parlare di altre cose, della giornata, di questo, di quell'altro. Non è detto che uno deve parlare di radio, di elettronica, di che ci può essere quello più preparato, meno preparato, quello che non gliene frega niente. Ma si parla in generale, questa cosa dei controlli sta diventando una cosa un po' troppo monotona, perlomeno la parte mia è monotona e pesante soprattutto. Perché ripeto, ne volesse la pena poi che qualcuno capisse veramente quando una radio va bene, la devi lasciare così, ma non c'è neanche quel riscontro, quindi alla fine io perdo tempo per dare i controlli, per stare lì attento al corrispondente e poi i risultati sono sempre qui. Ognuno fa come le piace, allora cosa chiedi a fare i controlli? Fai i suoi tibiati. O non sei d'accordo, Sandro? Ecco. Ti sento, vediamo un po' se ti ha sentito problemi. Ciao. sentito, l'ho sentito basso, ma ci arriva anche da Bentrolvero in macchina, arriva qua, non ci sono problemi. Ma non è così nuovo, Giuseppe, parlate con Carlana, vecchio CB, siamo già sentiti da casa, arriva abbastanza bene qua, segnale 9, oltre il 9, radio 5, adesso in macchina, Bentrolvero, comunque l'ho sentito. Ciao Giuseppe, buonasera anche a te. Vediamo Chiaramonte se vi ha ascoltato, ma credo di no, Gianni, l'hai sentito a Sandra e Giuseppe D'Alghero, dentro Alghero? Giuseppe no, Giuseppe no, più o niente, negativo. Sandro però ti si va subito abbastanza a te. Ti sei spostato di zona, oh Gianni? Adesso sei Santiago 9. Ottimo Gianni, ottimo, vedi che allora ascolti i miei consigli, tra l'altro l'altro giorno bastano anche 50 centimetri, un metro e riesci a recuperare sempre qualcosa, segnatela, falle un fosso, falle un segno, mettile un segno, quello in macchina è il punto ideale, perché se arrivano Santiago 9, figurati che da 3 sei passato a 9, c'è qualcuno che cerca di disturbarti e non riesce neanche a disturbarti, figurati tu, quindi sei Santiago 9, radio 5 è perfetta, Gianni. sei fortissimo, va bene così come microfono. D'accordo, ho la carica con tutto e ci si riascolta allora. 10 minuti, te la riprendo subito. Va bene. Picchia. No, ero in USA. no, questa non la prende cuffie, veramente. È ottima come radio. Peccato sia un 23 canale, ma vabbè, tanto sono sempre qua sul 10, quindi non frega niente. Se devo cambiare canale accendo l'altro. Se no, come selettività è molto, molto seria come radio. È positivo. No, stai che mese ci sarà cosa bella stasera. Porca miseria. E cos'è vista mia sorella con i baffi? No, ti dirò in verticale perché in frequenza ci sono troppe sfortune. Se domani ci premiamo a prendere la caffeina sul tuo posto te racconto. Vabbè, ho un telefono, ma vuoi un minuto, mi lasci così, Madonna santa. Ma non basta, che non c'ho credito, Claudio. Ora ce l'ho messa tu. Ma quindi? Quindi? Aspetta, chiamo quello di casa. Un po' la notte, ma poca roba. leggiamo il giornale. Perché è possibile un vento caldo così? Sì, c'era lo scirocco, ma non era così caldo. Questo bruciavano gli occhi stasera, ma non bruciavano gli occhi, se ero andato a casa, avevo un mal di testa allucinante. Mi sono buttato sotto la doccia, proprio acqua fredda. Non sento neanche proprio nulla, ero talmente caldo e allucinante. Poi si è fatto una pressa di quarantena, infatti gliela stavo assicurando e niente, siamo arrivati giù un'oretta, ho fatto una sigaretta, gli abbiamo fatto due chiacchiere e poi se n'è andato. Ma aveva un caldo, da morì. Non posso immaginare. E poi venuto c'è Massimiliano, sì. No, negativo, mi ha chiamato perché Gavino ha avuto un imprevisto. Ed erano già le 8:30, mi ha detto quello che non ci veniamo, è strufato. Ma non c'è nessun problema, la casa io. Adesso ci vediamo settimana. Tanto con delle radio. Sì, allora io. No, mi sono dimenticato che bisognava staccare tutti i fili da dietro, quindi gliele do una a una. Faccio una l'ho già staccata, preparata. Fammi fare le connessioni dal tale più 3 di questo, così con un microfono uso 4 radio. Questa è Stosano, il Zodiac, il Seas e l'altra, capito? E sì, ma soprattutto che non c'è il microfono, quello abbassi, quello non c'è proprio microfono per niente, l'ho comprato senza microfono, non ho perso, non c'è problema, faccio fare a tutti le connessioni a uno a uno, le connessioni del TMP3, faccio cambiare tutti i connettori della radio e basta, e con questo microfono li uso tutte, le alterno un pochino alla volta e le faccio andare tutti e niente, e quindi è così. Non so Antonio se c'è, se sta ancora cenando, ma detto ci aveva gente anche stasera e quindi non lo so se entrava. Positivo, ho sentito la sera, ma qualche film di poesia lo stai guardando. Beh, c'è un bel film, non so se è al Rai Premium, con la Mendola, la caccia, l'avevo già visto anni fa, è molto bello, ma sta guardando mia figlia o mia moglie. Positivo e Caparocio. E così è, troppo così, mannaggia. E cosa vuoi fare? Comunque sto andando bene, tutto da un filo, grazie. Ti immagini se questo filo? Infatti li ho cambiati tutti e due, li ho messo proprio negativo, positivo, nuovi. E guarda, se te lo dico, tu mi dici, ma non è possibile. Tutto collegato a pezzettini, io non capisco se si devono fare, se si devono fare dei lavori in un microfono del genere. E poi qui ci sono i partigiani, capito? La gente partigiana, ma con la data lui c'è la stessa cosa. L'uomo aperto, visto che è nuovo esteticamente, il tale più 3, quando l'ho comprato al computer. E invece quando l'ho aperto lui ci c'erano 3-4 fili staccati, tutti legati con lo scotch, quindi li ha tutti tagliati, li fa tutti nuovi. Adesso già è a posto, devo fare solo il connettore, però volevo vedere questo aperto per vedere se è tutto a posto, capito? Purtroppo la gente pasticciona, si mette a fare e poi non li vuole capire e incasina già tutto. E infatti. Comunque sta andando bene questo microfono, sì, adesso. Io la grande, la 15 è perfetta, quanto ce l'hai? E al massimo, perché ho provato a passare e Grode mi ha detto che non va bene. Lascialo così, magari ce la batteria un po' scarica. No, va bene, anche le tonalità sono giuste, perfetto. È perfetto, c'è la pompa, 5 è perfetta, la modulazione, va bene così, lascialo stare. Sì, no, poi stavo parlando con Gianni Chiaramonti, ma ha detto, ma cosa hai fatto qualche? Cazzo, sta uscendo una bici oggi. Cazzo, cosa ho fatto? Niente, ho fatto nessuna delle cose, né più né meno. No, noi ce la stiamo facendo molto molto bene. No, stai facendo benissimo, non c'è problema. Ottimo per la truppa. Positiva anche la Patrice di casa, sono studenti, 25 gradi. Ah, si è cavato il vetto, torna, mamma mia. Tanto c'è anche nero che non mette di Sassari. La maestra dovrebbe girare, forse più tardi, poi domani mattina, non so, speriamo che giri stanotte. Non avete fatto dormire, siamo in tocca tutta notte, do lavoro con il tenore, cazzo, c'ho un mal di schiena, ma come fai a dormire, io voglio a dormire. C'è tutto il giorno, vedo il caldo, cazzo, arrivo a casa, anche a casa c'è caldo, no? Io attacco il dutto, non me la fotti nuda. No, non si può, scusa la tua vita, non si può, no, questo caldo non è possibile, assolutamente no. E ma infatti, assolutamente no, Buffio. Allora, cerchiamo il riparo, non c'è problema. A te, se te le più televisore io lo vedere, tutti con l'ottite già oggi. No, non sai cos'è, caro, di queste lottite. E siccome è troppo sensibile come microfono, si porta via tutto, la verità si dica, doc. È un microfono doc, veramente doc. Lo so, però io se mi chiudo la porta non gira l'aria, allora devo stare col coso acceso anche qua. E devo mandare una carta che detta. Quindi tra il segnato, quando lo vorrei mettere sul Mobicon, le fai la connessione questo qua, mi faccio un pezzo di cavetto e mi faccio le connessioni normali, capite? E poi quando devo commutare con il mobico, commuto con il pezzo di cavetto, capite? L'adattatore li fa. Ascolta, il Michigan della 87 quanto è al massimo? Dove c'è scritto Mickey Gain, quello lì, cos'è al massimo? Aspetta un attimo, devo lasciare gli occhiali con le tasche diventa un po' miopi. Allora, e qua talmente scritto in piccolo si vede un neac, scusami dirmi, che lì. Allora, Mickey Gain sarebbe qui, il terzo tasto o il secondo? Dove c'è scritto Mickey Gain, dove non ce l'ho presente adesso la radio? Dove c'è scritto Mickey Gain c'è scritto. Cos'è? Al massimo o a metà o meno del massimo? Com'è? La rotellina? Allora, qua c'è Gall, quello lì è. Ma lascia perdere quello, è la calibrazione dello strumento. Vai avanti, leggi. Ah, ecco qua, Mickey Gain. Mickey Gain. O quello lì è? Non tocca il referente, deve stare tutto al massimo perché è la ricezione, se non ce l'hai bassa. Mi chiede il referente, tutto al massimo sono. Allora, aspetta che tocco perché ho cercato. Sì, tutto al massimo qua. Ok, basta, boh. A posto, il microfono è al massimo, pensavo ce l'avessi un po' più chiuso, mi chiede. Invece se al massimo va bene così, appena hai 5 minuti cambia la batteria con il microfono. Sicuramente scarica, comunque sta pompando un bel va bene. Capparoce. Aspetta che provo a abbassare, prova, allora, sto abbassando, allora, mi chiedi, allora, adesso abbassare, lo sto abbassando, è come? No, si abbassa la modulazione, mettilo al massimo, non toccare quello, neanche il refri di toccare, ma ce lo stare tutta manetta. Lascia tutto così allora. Lascia così, lascia, sta andando benissimo. L'unica cosa è cambiare la batteria perché sicuramente scarica. Positiva. Ok. Per il resto già va tutto bene. Oh, era solo che quando ho tolto quel... se tu hai la batteria, no? Mi sono accorto che c'erano due attacchi. Tre attacchi addirittura, cioè il filo spezzato, cioè il filo unico dove attacca la batteria, spezzato in tre parti. Avete voluto il cavolo, faceva, poi non ho capito questa cosa. Mi sono incazzato, l'ho tolto tutto, meno male che c'ho un salvatore che non è di quelli professionali, però si fa, insomma, rispettare. Ho preso questi due fili, tac, e li ho cambiati netti, li ho messi tutti e due uguali netti. Vuol dire che non faceva contatto a dove? Qualche filo del connettore o di alimentazione che toccava e ti porta quel... ti faceva quel rumore. No, adesso è perfetta, bella, limpida, la modulazione, alla grande. Perché ho detto, ma è strano questa cosa, non me l'avevo mai fatto. Capito, mi sono accorto che come ho aperto il microfono, trino, il trotto, di più di tutto, per carità, guarda, a me queste cose così proprio lastrati, così ho preso, tagliato tutto e ho messo i due cavetti nuovi, negativo e positivo, blu, e non se ne parla più. Se fate bene, altrimenti è un bel casino, la stessa cosa, non cambia assolutamente niente. Infatti, oggi la stazione mi sembra un po' morta. Caldo c'è, caldo, non ho fatto bene a uscire, sto a Piazza di Sinistra, qui noi gente, invece una bella brezza, si sta bene. Manco ci mi paghi un altro pochino, poi spiego tutto come vado a cliccarmi perché ho veramente bisogno di riposare, se no domani sono uno straccio, ci ho mangiato le batterie da ricarte oggi allucinante. Eh sì, e poi tu hai bisogno un po' di figli, se no questi clima qua, io. A settembre tu, in settembre ce la faccio, se no, già mi lascia la Turci. Al grande capo, io ho detto, come alle ferie, vuole a me, dal primo settembre non mi vede più, perché mette malattia, sono pesi, mi fanno male tutte le ossa. Ehi, non faccia così, non ci lasci nella merda, sì, hai zitta. Pezzo, se la merda. Ah, ma io guarda, insomma, sono vedate queste persone che parlano così. Nonostante che uno si faccia un anno grande, ma veramente grande, lavorando, aspetta il periodo delle figlie per poter calmarsi, cioè, nel senso, avere quella libertà di quella calma di lavoro, e poi se per voi tra di noi non ci lascia in mezzo alla meta, cioè non vedo neanche una cosa che sia positiva, diciamo, eh? È assurdo, io da gennaio che non mi fermo un giorno, da gennaio, tutta la settimana, sono 8 mesi che non mi fermo un giorno, già lo sanno, capito? Io sono passato a gennaio con la multinazionale, non mi sono fermato un giorno. Ho fatto tanti di quei lavori, tante di quelle cose, che guarda, non ti dico, da una parte all'altra, da spostamenti da tutte le parti. E lo sapete ricchi, non ce n'è gente da tu, ma non perché sono insostituibile, non c'è proprio gente, capito? Gente che possa prendere in carico e mandare avanti la situazione. E quindi loro sono molto attaccati a me, io a loro, e quindi gli accordi sono per portare avanti la barracca in maniera molto, molto serena e tranquilla. Poi Gerusalemme Cavaggio, se dovessi andare in malattia, ma già detto ci vuole malattia Burletto perché non si lavora con nessuno, è un periodo un po' brutto, e quindi stiamo cercando di tirare avanti, però io così non è che posso andare avanti all'infinito, non sono un cinghiale, quindi. E bene, lo farò bene. Lo farò bene. Va bene, gode, dai. Anche io adesso voglio pensare che si spende tutta che sono con voi nella Lucascia. Me ne vado in terrazza e mi trovo in altro gruppo. In altro gruppo. Mi ricordo sempre che avevo un cantiere che avevo con la Bonani e Benassi. L'umanità non era la mia di tutti i cantieri. Santa Teresa, stavamo costruendo il villaggio di Porto Pozzo, la mattina lunedì, si vede tutti i reni, cominciava a mangiare, l'appello, io, tu ci sei, ma devo mamma si è contro un capo lo blocco, va bene che è lui oggi. No, è il blocco nel senso che prendi un viaggio, mentre non si crede, ah, ma mi dovevi nascere, mi sembra un altro. Allora, dei rattrivi, noi, però si può stare qua, no? Così, la avrete a spedire. Non si può stare. Se lo sono, qua c'è un po' più di arte. Il blocco è quel gancio che si metteva nei portoni, no? Portoni grandi, vecchi. Ce l'aveva anche mia nonna. Si ammassava per sicurezza. E quindi la miscia della Iana si è controllata il blocco e quindi ho venuto a travagliare. Va bene, perché qua io lascio acceso, però mi allontano, ma vado nel salone c'è più fresco. Nel caso dovesse chiamare qualcuno, intervengo, Semmai ci sentiamo dopo, ok? D'accordo, dai, anche io lascio un po' acceso, lo sai, mi allontano anche io un po'. E se sento qualcuno, si risponde, dai. Ciao, Claudio, spero già all'ospedale ci vediamo domani. D'accordo, a dopo. Ciao, Claudio, ciao. Ciao. Ciao. Yeah. Ah, sta fuori. Giulio. No, non c'è mai dormito. Ha dormito, non è soffregato. E io mi Vabbè, la notte all'anno non c'è nessuno. Claudio! Claudio! Antonio! Attento Antonio! Sua diciamo che più o meno si assomigliano, dai. No, non si è riuscito. Eccolo qua. Sento, se c'è lo stesso timbro di voce, come ce l'hai tu, no, questa è bella. Oh, c'è bella, c'è bella. Va bene, va bene. Io adesso sono rientrato a casa, mi ero una batteria di denti e sono arrivato, va, tu lì sì. D'accordo, aspettiamo, eh. Eia, ad a voi. Eia. Io fa che? A Bizzese? Sono in nove. E allora, cosa mi racconti di bello? Caso. C'era una bella giornata oggi, dai, ma niente, non c'era tutto questo caldo. No, c'è caldo, proprio qua stiamo un po' in ufficio di vento, c'è tutto calmo. E oggi ho lavorato, eh? Sì, per qualche lavoro così, ma non più di tanto. Ma comunque te le fa a conto tuo quando ti escono. Sì. Poi andiamo bene. Io sono ancora alla ricerca ancora. Ma non ti hanno dato risposta, no? Nulla. Ancora niente, adesso c'è un altro mesetto e poi. E dopo questo mese devo. Infatti sto cercando di trovare qualche cosettina prima che. Prima di rimanere del tutto fermo, capito? Cercando di finire lì e facendo qualche altra cosa. Ho copiato io, sto un periodo di grigio, ma so. Nessuno, tutti preventivi, tutti cose, e poi non si faccia nessuno. E quello già è vero, ma non ci ho mai pensato a fare qualche pubblicità, nel senso, in modo che da farti conoscere. Sì, è tanto quella pubblicità, lui, la carità. No, è un periodo purtroppo duro. Ma infatti adesso domani chiedo, ma invece in qualche negozietta a chiedere, a vedere di mobili, a vedere cosa ne esce fuori. Vediamo un po' domani mattina presto, vediamo un po' cosa riesco a togliere, poi se riesco a toglierne qualcosa. È positivo, adesso domani se c'è tempo vado a trovare questa parete qua, vedere Paolo il padre cosa mi dice, peccato. Per farti uscire qualche giornata. No, per il tuo lavoro. Il tuo lavoro di mobiliere e compagnia mia. Va bene. Speriamo, io domani provo un altro. Vediamo cosa ne esce fuori. Poi se sento qualcosa anche a te, se sento qualcuno che deve riparare, fare qualche aggiusto in casa, già te lo tengo presente. Io ero preoccupato, ho detto, ma Tomé, l'ho chiamato oggi varie volte, ma non si dà la risposta, ho detto, ma si sa. È un po' di paranoia in testa, ci ho capito, dunque. Devono un po' giù di morale, la verità, anche se è sbagliato, comunque a volte ti prende un po' i pensieri, sembra che comandino loro ma non tu. Adesso un pochettino mi sono ripreso, e lo sai cos'è purtroppo la famiglia, e quella è la famiglia che è una grossa responsabilità, e dunque, come si dice, come tra virgolette, no, come uno c'è il pantalone, bisogna darsi da fare, capito? E va bene, ma io penso che anche la famiglia sia la corrente, purtroppo bisogna avere pazienza, la famiglia penso che queste cose le capisca. Lo so, ma ci soffrono anche loro, ho capito cos'è, tutto un insieme. Lo sai, quando non c'è una stabilità, un qualcosa di sicuro, purtroppo rimani sempre con questo pensiero in testa, no? Che ti martella ogni giorno, finché non ti addormenti e poi quando ti risvegli, il primo pensiero è sempre quello, non è facile, porca miseria. Lo so, Antonio, non è facile, però bisogna avere un po' di, come si dice, di ottimismo, capito? E poi vedrai già se sono, eh. corsi? Sono 2 anni che sto lottando, 2 anni. 2 anni proprio contatti, né un giorno in più né un giorno in meno, 2 anni. Ma è andato da poi da quella persona, sì. Persona che mi ha detto quell'altra persona? Sì. Sono andato e lui mi ha detto che mi ha detto così, che era pure dal giro di dove era prima e non sapeva niente, tutto lì, la sua risposta è stata quella. Poi l'ho trovata a casa sua perché era in ferie e rientrava il 29 di questo mese, alla fine mese, era in ferie. E perché non sapeva niente, in poche parole non me l'ha detto, ma non so nulla, non posso fare niente, tutto lì. Aspetta, non so nulla, insomma, uno essendo nel giro qualcosa, anche se non può fare niente lui, può far fare qualcosa a qualche altra persona, dai. Lo so, ma purtroppo già ho capito com'è l'antipano, come funziona, e come ti posso spiegare, a comodità degli altri, e se ne hanno voglia le fanno le cose, se no caro figliolo, pazienza, arrangiati, capito? Il discorso è sempre quello, ma non è che vale per me, a quanto pare vale per tutti. Insomma, se vogliono farlo, dai, non è quello il problema. Chi vuole farlo? Lo so, la voglia che manca, o almeno un pochettino un pizzico di cosa ne so, di aiuto, no? Che poi non costa niente, fai questa cortesia se ti viene bene, ecco, appunto finito il discorso, tutti non devono fare altro, dire due paroline, e poi tra virgolette sperare, a volte bastano 2 parole, ma almeno ci ho provato, ecco, vabbè, è andata male, ok, ma almeno il pensiero te lo ci ho provato, ecco. Tutto lì, e poi invece manco quello fanno, capito? Non c'è più sensibilità come prima, come i vecchi tempi. Per già lo vedi anche tu come si vive. Sì, quello è vero, purtroppo me che aveva volere potere, purtroppo è gente, oddio. Sono delle persone che non è più come quei tempi trascorsi. In dubbio, come si dice, una mano lava l'altra, no? Non è che vabbè, oggi tu hai fatto un piacere a me, di domani quando serve qualcosa giustamente deve essere ricambiata, ecco, ma vale la pena quando le persone sanno che stanno tranquille e dormono la notte tranquille sapendo che domani, diciamo, non manca il palantolo e poi degli altri alla fine ciccia. Beh sì, quello sì. Allora ti piace la radio questa, Devo dire che è molto tranquilla e delicata, giusta, è bella, una bella modulazione. Positiva, vuol dire che ho fatto qualcosa di buono stasera. Com'è quello che c'è anche il regolatore del Michigan e del tono? Sì. È perfetto, dunque giustamente se tu regoli il tono ti cambia la tua voce alla fine. Infine si abbassa il tono della voce, distorce, compagnia bella, lasciamo stare com'è, capito? Perché se poi stiamo a fare queste regolazioni non si capisce niente poi. Beh, cerchi di dare alla fine, lo dai a tuo piacimento, mi come piace a te, giustamente poi lo molli. Però c'è anche una specie di indicatore con la freccetta. E c'è lo Smith, no? E direttamente fa vedere a quanto stai uscendo, così. Esatto. Ti fa vedere se stai uscendo o no. Se quella uscita rimane ferma, se ne vedete c'è qualche problema a microfono, tutto lì. Se poi la uscita funziona, come lo smetti della radio, vuol dire che la cosa è tutta positiva. No, poi vedo che già sono abbastanza buoni questi ZG, cosa ne pensi? Dai, sono anche belli esteticamente, robusti. Sono fatti bene, dai, la verità. Sì, sono fatti bene, ma oddio, ci sono sempre delle capsule che bisogna sostituire perché quello che tiene la casa non è che anche. Dunque il vento si può piazzare tranquillamente smontando quella originale e mettendone un'altra, alla fine. Sì, no, non ci stanno problemi. Non ci stanno problemi perché io ho fatto la modifica, l'ho fatta solo sulla Counter-Strike, tutto lì. No, perché io so che sono in ceramica, se non sbaglio, già dalla fabbrica queste, diciamo, queste capsule là dovrebbe essere anche di buona qualità. Di buona qualità, ma non di ceramica, occhio, perché la ceramica è una cosa, e il ferro è un'altra, no, sono la casa della, e quel materiale di ferro, ma non so fino a che punto possa essere una capsula buona. Ma io c'ho il deplianto, dovete avere allora l'MB più 5 che ce l'ho qua davanti, qui dice ora aspetta, adesso te lo dico subito, ecco, capsula in ceramica, tutti e tre modelli, MB più 4, più 5, più 9, sono tutti, c'è scritto così, capsula in ceramica. Ma guarda, non esisto, perché non esisto, però quando io l'ho avuto aveva la classica capsula piccolina in ferro e non in ceramica. Ah ecco, andiamo bene, qui c'è scritto così, poi vedo che bene o male tutti i tre modelli hanno le stesse qualità di decibel e niente, l'unica cosa che cambia il tuo c'ha con regolatore tono, strumento, misuratore di uscita. Invece il più 9 c'ha con ecco regolabile, Roger Beep e strumenticatore di uscita. Sì, a te ti manca l'ecco e Roger Beep e poi il resto è tutto. Sì, più o meno l'ecco, perché Roger Beep, il Beep ce l'ho già dalla radio e non è che mi comporti più di tanto. Ma c'era un po' di ecco, nel tuo strumento c'è il fogliettino della ZG che ne aveva dato Fusaro. Nell'ultima pagina, sì, proprio l'ultima, ci sono questi modelli di microfono. Solo c'è questo altro modello qua che si chiama, non so se lo conosci, l'M95. Vediamo un po' se è questo qua. Sì, M95. E ti dà la possibilità, no, non è l'M95, aspetta, l'M101, il cambiavoce. Questo microfono è dotato di uno speciale circuito unico nel suo genere che cambia in modo molto divertente la tua voce. Essa può sembrare quella di un paperino o di un orto, a seconda della regolazione, a 6 posizioni, e può anche diventare irriconoscibile a chi vi ascolta, pur restando sempre molto chiara. Una voce maschile può sembrare femminile o viceversa. Il circuito cambia voce può essere escluso, diventando ottimo microfono per gli amplificati, anche dotato di una presa per l'auricolare per l'autoascolto della propria voce. E così si chiama M101. Copiato. Sì, è vero, come il microfono ha le sue prestazioni. Io questo l'ho abbinato bene con l'M300, capsula M300 e meno che va. Non è preso da parte, ne vendono, diciamo, scuse in modo da fare questa modifica. No, questo era di un microfono che avevo io per mare e l'ho adattato al tavolo, tutto lì. Fatto bene dentro come misura insieme alla griglia forata, quella che vedi di fronte. E non è grande, ti posso dire che è proprio misurata a metro e un centimetro, non più grande di un centimetro. E quanto una moneta di 2 euro? No, un centimetro. Allora molto piccola, va. Esatto. C'era già una bella modulazione, già va bene, ogni tanto vedo che cambi. E poi non ho capito, c'era questa sorpresa che dovevi sistemare, ancora non l'ho sentita. O è in fase di recupero? No, quella è in fase di recupero, quando sarà il momento opportuno lo sentirai e poi mi dirai. Poi la sorpresa, là, Natale? Più o meno sì. Già va bene, dai, diciamo, poi gli altri giustamente li dai in donazione, diciamo, gli altri apparati. Sì. Ah, perfetto, allora dai, sono il primo. E oggi non ne voglio nessuno di collegarsi, strano, eh. Verso quest'ora di venerdì c'è sempre un po' di movimento, tutti a nanna sono. Ah, di la verità c'è la Claudio, metto tutto acceso, sono un ascolto e boh, è strano che non la verità stacco, la verità è la stacco e poi di Antonio Grobe, boh, non lo so se c'è ospiti, se si è addormentato, non saprei dirti. Ho sentito alle, vabbè, al telefono, dimmi, aspetta, l'ho sentito alle 7, verso le 7, sì, 7, 7 e un quarto, e dopo ti chiamo più tardi, ti faccio sapere, no, e no, non l'ho sentito per nulla. Positivo, non sapevo da dirci. Un attimo che porto il ventilatore a mia figlia che ha caldo. Sì, ma tranquillo. A lei? Corrado. E io, e così è. Ma non è, che lo devo fare, per carità. Ma guarda, sei pensieroso. Ma no, ma più che pensieroso. Insomma, appena appena di preoccupazione perché questo lavoro, vabbè, grazie a Dio, già non è solo l'unico che ho fatto lavoro, grazie a Dio, già ne ho fatto parecchi e tendo sempre ad ammortizzare, ecco. E lo so, però è sempre brutto ammortizzare, dai, sperando più in domani lavori, è una brutta situazione veramente, guarda, non ti fa vivere, maledizione. Così è, lo so, però vedi, avendo un po' di esperienza di una cosa e l'altra, uno si butta sia una cosa che l'altra e riesce ad andare avanti, capito? Solo che neanche quello puoi fare, che purtroppo è dura, cioè è una cosa che non si crede, guarda. Sapere, ma la gente come fa? Se tu ne conosci più di me di persone, chi non lavora, e penso che anche tu ne conoscerai, come fanno queste persone a andare avanti? Non credo che tutti abbiano i genitori e tutti i genitori in pensione ritirano una bella pensione, scusami. No. Beh, ci sarà dell'altro sotto, perché io conosco le persone che non fanno niente e sono pieni di soldi, pieni di soldi. Però ce l'avevano da prima o avranno investito qualcosa, perché non è possibile. E senza lavorare tutti questi soldi prima o poi non finiranno. Ehi, non è così, no. Chissà cosa tutto c'è, Antonio. Chissà cosa tutto c'è sotto. E noi non siamo così bravi a essere come loro, è possibile. O perché siamo onesti. Siamo in queste condizioni. Purtroppo il discorso è la seconda frase. Noi non riusciamo a farla perché siamo troppo onesti, capito? Diventiamo anche noi stronzi, arrivato a un certo punto lo fai per mangiare, ma non per cattiveria, sono le condizioni di vita che te le impongono, comunque alla fine, perché non farlo anche noi? Ah, beh, quello sì, che sia un po' di coraggio, perché per fare certe cose bisogna avere coraggio, non è facile. Eh no, è porca accidente, vabbè. Vediamo un po' piano piano, ma io raccontami qualcosa di bello che mi sento un po' giù di morale, dopo ci diamo la mano. E cosa di bello cosa vuoi raccontartemi? Qua è un radio, ogni tanto si entra, si scambiano due parole, e giù di morale, cioè più che giù di morale, cioè ti fai un esame di coscienza di là. Come si va a finire? Punto di domanda. Quella è una bella domanda e la risposta non mi viene in mente, perché non me ne immagino neanche. Io sono purtroppo attore del parere che penso sempre in positivo. Oggi può andare male, potrebbe anche andare male. Domani così così, dopo domani chissà. Ma noi ci auguriamo sempre il bene, dai. Quello sempre, quello sempre, per carità. E se si pensa già al male, allora uno è già fregato in partenza, però rimane sempre come se intrigato di punto di domanda, che cerchi sempre di buttarlo via, capito, tutto lì. Ah, io ripeto, 2 anni fa le cose sembravano belle, perfette, tranquille, si lavorava bene, il lavoro c'era, poi capito, sempre tutto d'un colpo, capito, tutto d'un colpo, un mese dopo, boh, finita tutta la situazione. Purtroppo, come perché io vedo imprese che lavorano, vedo anche vicino a casa, tu vai chi, siamo tutti a completo, a bombe del bagno. Allora c'è qualcosa di sotto che non quadra, perché purtroppo non è tutto rose e fiori quello che vedi, c'è sempre qualche sfida in mezzo. Il lavoro ci sarà in qualsiasi lavoro, cioè, per tutti i lavori che ho fatto, la verità, c'è sempre la magagna in mezzo, giustamente, anche tra colleghi, poi per frontata, alla fine ci guadagna sempre, tra virgolette, il datore di lavoro ci guadagna sempre lui, mentre uno si massacra, o si tira le pietre uno con l'altro per farsi vedere, no? Per dare un pochettino di figura, per tenersi il posto di lavoro, poi alla fine un calcio in culo a tutti e si è a casa, diciamo, hai fatto la bastardata e poi alla fine si ho guardato tutti gli altri, è sempre quello il discorso. Dipende, perché a me mi è capitato anni fa di, insomma, di essermi comportato di aver fatto l'ottimo operaio, però purtroppo c'è sempre l'infame, no? La piccola linea dell'impresa che cercava di mettere fuoco. E ha messo a fuoco e ce l'ha fatta, capito? Però ovviamente anche lui non è che abbia durato molto. Anche lui ha zonzo alla fine, dai. Si è messo, diciamo, i bottoni per le ruote e poi alla fine ha fatto anche lui forse più brutta figura di te alla fine. Diciamo che alla fine io avrò preso il posto di lavoro e ne ho acquistato un altro, lui purtroppo ha preso il posto di lavoro, e ne ha tolto, che ben diverso. E così come è capitato a me lo stesso, quando lavoro da Caos in paese, nel negozio di mobili. Questi facevano vedere grandi e grossi che erano bravi qua e là, poi alla fine anche loro sono stati i primi, attenzione, i primi a essere buttati fuori. E poi piano piano a tutti gli 11 che eravamo alla fine, e poi è fallito. Ma si augura sempre del bene, sperando che. E poi c'è questo, una volta che si ferma l'edilizia, si fermano tanti campi, e non è facile, si fermano tante cose. Giustamente. Non costruisci case e nessuno li acquista, e già l'immobile sta già perdendo, giustamente le case vanno arredate e giustamente lavorano i mobilieri e i falegnami e i tappettieri, tutto quello che comporta, tutto un giro, è vero, senza casa niente, nulla di nulla. No, nulla, proprio di nulla, ma adesso vediamo un po'. Dovrebbe mettersi un po' a posto le cose, ma non sono tanto fiducioso io. E quello non è vero. Comunque, se vuoi domani passare una serata diversa, in paese c'è questa festa che si chiama Music Art, e ci sono un sacco di attrazioni da strada, un bel po' di artisti, poi ci sono esposizioni di quadri, di pittura, di raduno di Vespe 50 Special nel centro storico del paese, ci sono un sacco di cose, ceramicisti, sarti, torronai, altri artisti della tradizione sarda. Comunque tutte queste cose che ho detto più gli artisti da strada al centro storico, se volete è gratuito. E poi a mezzanotte ci sono due gruppi, Tamurrita e gli Astra, vabbè, questo non mi interessa. Comunque fatto sta, poi mentre tu ti guardi inizia questa festa alle 5, esatto, alle 5, alle 19 c'è degustazione di lumache raccolte nel territorio di Ossi, preparate con ricette tipiche locali. Se vuoi venire ti guardi tutta la festa, bella a piedi, perché il centro storico è chiuso, dunque senza nessun traffico e nulla, e poi alle 9 vai a mangiarti i rumache giù all'entrata del paese in piazza. Sì, ben volentieri avrei fatto, ben volentieri, ma bisogna vedere, bisogna tutto vedere, perché ci manca il mezzo per salire e per scendere, tutto lì. E se voi, scendo io a prendere tua moglie, hai fatto una bella passeggiata, e quanto costa? Quanto è 5 minuti da qua, da Ossia Sassari? Non so, oltre, è tutto a vedere, perché mia moglie lavora, capito, fa il notturno e un po' non ci viene. Vabbè, sarebbe coincisa come orario, non c'è nessun problema. Poi se voi domenica 28... c'è la sala e siamo a Tavrissa, ti piace? Sì, ho già mangiato. Questo è il centro storico alle 5.30. Poi c'è il torneo di scacchi, moto di artigianato locale, e poi due piccoli gruppi che sono sempre al centro storico. Se non c'è il sabato, c'è domenica, questo inizia alle 5.30 di sera, sì. E io adesso vediamo. Sì, si vede un po'. E va bene, ripeto, se ha la possibilità almeno farsi una giornata diversa. Sì, quello sì, quello già vedo. Voi, se c'è la possibilità, io mi attacco domani, se avete tua moglie la possibilità di salire, che non ha impegni come orario, me lo dice e vengo a prendervi, non mi costa niente. E adesso la vediamo, dai. Come te, Geres? Io. No, ma io già, a me piacciono le sorprese, non è che sono stato 3 anni lì e posso dirti che stavo un mese su che qua. Non c'è la possibilità di risalire, no? Se riesco a fare qualche 13, qualche cosa, comprarmi la casa, sì. Ma dove sei tu? Non puoi fare gli affari tuoi, non sei in affitto lì. Io non sono in casa popolare. Quello già è vero, perché almeno qui bisogna per dire avendo una casa singola in affitto già sei più libero, quello già è vero, tu lì dove sei tu c'è più comodità, ma spero di fare che lo faccio un 13, vieni a Ossi. Non mi dispiacerebbe, perché io ci ho vissuto 3 anni e ti posso dire che in 3 anni mi sono più che divertito. All'epoca lì l'apparato con l'antenna non ce l'avevi a Ossi? No, si modulava in BM. Dunque già non ti è mai mancato la porta antemano? No, assolutamente no. Io ho sempre modulato, sempre, da 20 anni a questa parte, anche se ho smesso, ho chiuso per un periodo, però modulavo sempre. Ho un BM, casa, in qualche posto, ho modulato sempre. Già non hai perso mai il vizio. Ascolta, tu penso che sia più informato di me, ancora non mi metto niente. Non so quando è la riunione, se è qualcosa, ci dovrebbe essere una riunione, se non ho capito male, a fine mese, o qualche notizia nuova. No, non saprei cosa dici. Non saprei perché dice ho sentito qualcosa, però la ragioniera era con le figlie e rientrava di stato in mezzo, non so che cosa. Adesso non so se era riferito al discorso della riunione o altri discorsi. Comunque lui stava aspettando che rientrasse la ragioniera per poter, non so, se fare questa riunione o viceversa. È tutto da aspettare ancora, alla fine. Sì. Comunque tu già partecipi, sì. Poi non ho capito mai se dovremmo anche andare a Scalapiccada. A Scalapiccada, a fare che? A quanto pare, così mi hanno detto, dovremmo essere noi presenti per, diciamo, coordinare un po' la gara. Non so che compiti specifici dobbiamo avere, sempre con degli apparati, e lì, a quanto pare, per quanto mi detto, ci dovrebbero aver invitato, diciamo, il gruppo là della Scalapiccada. La gara sì. Mi fa piacere. Fa molto piacere, non poco, ma molto piacere. Tanto so che tra una cosa e l'altra la mattina inizia e finisce verso l'una, le due di sera, se non sbaglio di domenica. Dunque a voglia che non c'è tutto questo impegno, abbiamo tutto il tempo di fare qualsiasi cosa. Poi domenica, tutto chiuso, tutti a casa, facile, con la scusa anche per stare in compagnia, dai, divertirsi. Sì. No, fa molto piacere fare queste cose, perché a parte che mi piace la gara, poi fa piacere, dai, tutto sommato fa molto piacere. Dovremmo andare anche con le magliette, con la scritta Falchetto, tu? No. Allora, dobbiamo fare anche le magliette, non lo sapevi questo? No. A quanto pare bisogna organizzare anche le magliette, sicuramente bisogna decidere il colore, lo sfondo della maglietta, il tipo di maglietta, poi giustamente, se non ho capito male, dietro le spalle il nome dell'associazione e davanti il nominativo che ognuno porta, capito? Dunque tu Falchetto, io Barracuda e compagnia bella, tutto il gruppo dobbiamo fare tutti con lo stesso colore e ognuno la sua scritta. Oh, c'è una cosa buona, è una cosa buona e positiva. Ma mi sono dimenticato, a te bisogna scrivere zio Falchetto. No, va bene anche Falchetto. E ci mettici anche lo zio. E paghi di più. Ah, così è. No, non ci sono problemi. Oh, zio Falchetto, non ci sono problemi. L'importante è che la cosa fatta bene, organizzata bene, e poi va bene anche così, dai. Tu secondo te la maglietta come dovrebbe essere? Semplice, come una maglietta normale, cioè presente le magliette bianche, ecco. Adesso facendo un esempio, senza colletto, maniche corte. Cosa ne pensi? Ci sono diverse tipologie di magliette, tu come la preferisci? Ma guarda, io ne ho una che ho partecipato a questo raduno del canale 45 e ti posso dire che per me la maglietta classica è quella a girocollo, semplicissima, spendere poco, ed è una maglietta bella per me, per come la vedo io. È semplice, come quello che si usano le stive, dai, alla fine, senza avere il colletto, normale, a girocollo direttamente. E va bene anche a me, sono comode. Poi bisogna cercare il colore, la tua, di quella manifestazione, che colore è? Allora, di quella manifestazione, la mia, di Claudio, che ha partecipato, è nera con la scritta bianca. È nera così, e potrebbe andare anche bene come sfondo, cosa ne pensi? Un tuo giudizio. Ma io direi più che positivo, perché sono juventino, ma mi sa molto bene. Magari, se no io per fortuna non tifo nessuna squadra, non sono un asilato di calcio. No, vabbè, poi a me il nero piace, sta con tutto. Alla fine puoi abbinare con tutto il nero, giustamente in cotone, in estate, in lana, d'inverno. Vabbè, poi quando viene l'inverno è l'altro paio di maniche. Comunque, anche a me va bene, nero, sfondo nero e scritta bianca. No, io scherzo. No, va bene così, no, una semplice maglietta, voglio devi spendere queste grandi quattrini per poter fare una maglietta. Se fa una maglietta semplice, si rotolo, ci si scrive l'associazione, il nominativo di chi partecipa a questa manifestazione, ciccia, com'è che devi, che uno debba spendere quattrini su quattrini per avere una maglietta, insomma. Tanto è una cosa che tu metti quando arrivi a casa, la devi, cioè la devi prima di arrivare a casa, ma è una cosa che ti rimane come ricordo, ecco, tutto lì. Sì, quello sì, no, ma io so che, come si dà altre persone, dovrebbe costare una decina di euro, non di più, non è così costosa, capito? Vabbè, anche bene 10 euro, non è un problema, poi si indossa quando dobbiamo fare manifestazioni, che ci chiamano e farle fare, ecco. Sì, no, la cifra penso che sia lì, perché io lo stesso ho pagato 10 euro per quella maglietta lì, capito? E alla fine siamo lì, là, non è così abbastanza dispendiosa, già non ci pulveriscono a fanculo le 10 euro, dai. Almeno tra virgolette ci distinguiamo dagli altri, è una bella storia anche quella. Sì, vabbè, tutto sommato è una bella, bellissima storia. Capito, sono tutte cose che alla fin fine sono cose che magari negli anni passati non si sono fatti e non so come, però alla fin fine è sempre una cosa che un ritorno che ti rimane, capite, tutto lì. Già, va bene, adesso vediamo un po', anche se la vedo un po' lenta, un po' come situazione. Comunque aspettiamo, là, se non capito male, prima di settembre si dovrebbe iniziare un pochettino a lavorare di più. Speriamo, là, almeno un pochettino ci liberiamo la mente. Ah sì, ma sì, dai. Io dico, guarda, sto sempre a parlare, bisogna sempre pensare al positivo, mai al negativo. Perché se uno si butta a terra e pensa negativo, iniziano i fastidi, le malattie, l'esaurimento, e non va bene, bisogna essere un po' positivi nella vita, dai. Beh sì, già lo tengo presente a Puglia. Tanto l'hai capito. Allora, bisogna essere positivi, se no, ui. Tanto ricordiamoci che bisogna darsi una mano l'uno con l'altro e vedrai che poi le cose si mettono a posto. E quello è il bello, darsi una mano uno con l'altro. Io vabbè, già mi è capitato più di una volta, la verità, non me ne nego, che molte persone mi hanno chiesto una mano, io di domani mi sono messo a cercare e a fare, l'ho sempre fatto, non ho mai chiesto niente. Adesso per esempio l'ultima persona che ho aiutato era questo rumeno di Tula, che purtroppo era senza lavoro, lavorichiava, e gli ha dato la figlia, adesso non mi ricordo come si chiama, ed era senza niente, e io sono riuscito a procurargli, sempre chiedendo, 5 buste di vestiti da 0 anni sino a 5 anni, e gli ho fatto tutto il guardaroba, poi un lettino, compreso di materasso e cuscino, e una carrozzina, diciamo giustamente usata ma nuova di zecca, sempre chiedendo a persone giustamente che avevano figli, erano già grandi, e che se per favore, invece di gettarla, avessero la possibilità di aiutare queste persone. Ho caricato la macchina, gliel'ho portata, e ho fatto il mio dovere. Ah sì, è capitato anche a me, è capitato anche a me, ma io ti posso dire, roba nuova, impacchettata, nuova, con cirofa, e donata proprio a queste persone bisognose che non avevano, diciamo, un dollaro bucato. Ho caricato la macchina, ma è caricata, però questo non so quello, non so che cazzo di dito, questo di mio compagno, ho caricato la macchina e li ho portati a bustoni intieri, sai dove li bustoni intieri, scarpe, di tutto e di più, ma roba nuova, ma ti posso dire che si hanno indossato, quegli indumenti li hanno indossato una volta, ho detto tutto, Sì, poi per i bambini non si consumano, si sporcano pochissimo, poi vengono sempre lavate, sì, alla fine è nuova. E qua vedi, quando c'è la possibilità, diciamo, riesce a organizzare, perché no? Esatto, sono stato contento, tranquillo, ho fatto una chiacchieratina, diciamo, lo conoscevo un po', sono 2 o 3 anni che non lo vedo. E mi sono sentito di fare questo dovere, a posto così. Solo che non tutti li vengono, diciamo, tra virgolette, questo assillo, aiutare le persone, le vengono in difficoltà, girano la faccia e se ne fanno, purtroppo è quello il problema. Comunque, qualcuno ancora è rimasto con un pochettino di cuore, dai, alla fine. Ma guarda, ti posso dire, ci sono delle persone che non cuore c'erano grande, ma molto grande. E io ti posso dire che questa persona che conosco io, se io guarda, potrei andare anche domani a dire mettimi da parte della roba presente, perché lei mi diceva sempre questo, me, signora tu, mi raccomando, io questa roba gliela do, malattia, se non serve a voi o a chi lì per lì, la dia alla gente bisognosa. Io la prima cosa che facevo la davo alla gente bisognosa, capito? Ma non ai giocattoli nuovi, anche i giocattoli per bambini, guarda, credimi, attore di tutto e di più, e l'ho tutta data a gente che ne aveva bisogno. Gente di zona di Sassari, data alla fine, visto, c'è la possibilità, perché no? E quello è il bello, perché no? Giustamente fa un'opera di bene, quello sì, pure vediamo un pochino, un po' di sorriso, lo regala agli altri e penso quella sia già la paga per il gesto che uno fa alla fine. Esatto, perché tu dovevi vedere questi bambini quando portavo il busto di giocattoli, ma la felicità di questi bambini era una cosa, guarda, si dimenticavano anche di mangiare. Vedi, questa è un'altra bellissima idea che si può affrontare. Un esempio, quando l'associazione prende piede, perché no, si possono fare anche queste iniziative. Penso che a Sassari ce n'è gente che ne ha vestiti che non usa, anche per bambini giustamente, buttati in soffitta, tanto di ammarcire. Vedi, questa è una bella iniziativa che si potrebbe anche affrontare, sembra una bella cosa lo stesso, cosa ne pensi? Guarda, per me non ci stanno problemi, qualora il giorno che voi mi dite, guarda, facciamo quest'opera qua, io non mi costa niente andare dalla signora e vedrà la roba che ne togliamo fuori, ma la roba veramente doc, roba che uno può indossare anche lui, perché io non mi vergogno di dirlo, quando c'era roba che stava a me, tipo roba di pantaloni di lavoro e via dicendo, me la indossavo io, capisci? Me la indossavo io e non me ne vergogno di dirlo, capito? Perché ti devi vergognare, tanto alla fine per buttarla giustamente o la usano, che vergogna è, assolutamente nessuna vergogna. Vedi, questa è una bellissima idea che si può affrontare, il giorno che facciamo la riunione togliamo anche questo discorso, vediamo un po' cosa ne esce. Vedi, quando si forma un bel gruppo, guarda quante iniziative si possono fare e far conoscere anche la radio. Vedi, sono tantissime cose se si prendono in considerazione, che sono, se le facciamo tutte insieme bene, ognuno va d'accordo, guarda, è la cosa più bella che ci sia. Ma sì, io ripeto, qualora noi affronteremo questo discorso, io sono in prima persona, io personalmente, io sottoscritto, sono in prima persona a dire, ecco, da oggi voi avete questa roba qua, da distribuire alle persone bisognose. E vedrai che è anche una cosa bella sia per la stazione, sia per l'organizzazione, sia per tutte le cose, perché nella vita bisogna darsi una mano l'uno con l'altro, se no, Io c'è un problema, anche io bene o male conosco qualcuno a chiedere. Dunque non c'è nessun problema, il giorno che si organizza, diciamo almeno siamo in due che ci possiamo muovere tranquillamente. E beh, giustamente ognuno avrà il suo compito e così via per tante altre iniziative, che questa penso che sia una cosa molto bella da prendere in considerazione. E parlando cosa ne c'è fuori? Questo non ci avevo mai pensato, la verità. Avanti. Roger, ben sentiti, ben ascoltati, ben sentito Falchetto, ben sentito Antonello Barracchiuda. Non mi sono dimenticato di te, mi devi dare 2 secondi che prendo quell'indirizzo e te lo do. Purtroppo stasera sono stato chiamato urgentemente a risolvere un problema a una persona e non ho potuto richiamarti, o meglio, non ho potuto prendere l'indirizzo e quindi dartelo. Mi dai 5 secondi e te lo do qua in radio. Vabbè, non c'è problema, ti ringrazio. Ma cosa sei? Fate bene Fratelli di Milano? No, veramente comunque qua sentivo una cosa, ho sentito metà del discorso vostro, ma perché, non perché non volessi entrare, ma perché questa radio ha bisogno di scaldare un attimino prima di iniziare a modulare. Esiste qua a Sassari già un centro che si chiama la Casa della Fraterna Solidarietà, che fa questo tipo di servizio. Pienamente d'accordo. So, il fatto sta perché anche noi giustamente si potrebbe anche collaborare con loro e diciamo è tutto da sedersi, discutere e valutare, perché no? Penso che sia una cosa positiva anche per dare valore anche all'associazione CB, perché no? Infatti assolutamente, io come hai detto tu nell'ultimo passaggio prima che entrassi, sono tutte cose che valuteremo in sede di riunione che sarà a metà prossima settimana, sarebbe dovuta essere alla fine di questa, ma non mi ero reso conto che non so per quale arcano mistero chi lavora si prende le giuste ferie, o giuste tra virgolette, e rientrano tutti i commercialisti, giustamente, perché sono distrutti dal lavoro che hanno fatto, capirai, comunque, perché hanno consegnato, hanno fatto la denuncia, la consegna della denuncia ai redditi, quindi sono in ferie fino al lunedì di questa prossima settimana. Da lunedì riaprono tutti. Va bene, avanti zio Palchè. Sì, sto le iniziative, secondo me proprio perfette, giusto per poter aiutare queste persone purtroppo in difficoltà, perché ce ne sono parecchie in difficoltà e non me ne vergogno a dirne, perché ne ho aiutato parecchie e le aiuterò. Nel mio piccolo aiuterò chi posso aiutare. E sì, è buona come iniziativa e questo lo metteremo anche in conto quando sarà il momento opportuno. Tutto qua. Guardate, io non posso che essere concorde a iniziative a scopo filantropico, cioè a favore dell'umanità, comunque dell'uomo, delle persone, dei bisognosi, perché il motivo per cui nasce questa associazione è proprio questo, cioè il fatto di non stare lì esclusivamente a modulare, a fare un QSO, a darci controlli, ma metterci al servizio della società, con qualcosa che poi ci metterà nella condizione di defluire o confluire nella protezione civile. Esatto, parole sacrosante. Ora avanti con la musica, allora, che inizi però. E ti ripeto, a me fa piacere che la cosa abbia preso un po' di ritardo, perché vabbè, siamo nel periodo estivo, purtroppo ci siamo svegliati o troppo tardi o troppo presto, perché il periodo estivo deve mettere in conto che purtroppo a livello burocratico succedono queste cose, c'è la denuncia dei redditi, la cosa va un attimino per le lunghe, quindi è normale che questo accada, perché ci siamo trovati fra l'acquisizione della partita IVA e l'acquisizione del codice fiscale, perché sono due cose che devi avere a livello burocratico, sono queste due, che sono abbastanza semplici, cioè in altre situazioni dove non ci fosse stata la denuncia dei redditi di mezzo, saremmo andati lisci nel giro di due settimane, avremmo fatto tutto e saremmo stati a cavallo, cosa che siamo lunedì, quindi non è una cosa così lontana, diciamo. Faremo una riunione, chiaramente saranno chiamati i soci fondatori e qualcun altro, ci farebbe piacere averlo, come ad esempio Lio Farchetto. Positivo, non ci saranno problemi, io sono sempre alle vostre disposizioni. Mi fa piacere perché in questo ritardo dà adito alle male lingue di dire mi sono partiti e adesso stanno già tirando il remo in barca, invece non hanno capito niente, che la cosa sta andando come un treno, come un siluro. E la cosa bella sarà la seconda uscita sul giornale che faremo, dove annunceremo appunto le prime manifestazioni che faremo, e lì si sentirà rodere proprio le chiappe qualcuno. Si conferma, non tutto è perso, perché c'è sempre la disponibilità di noi, di chi veramente ha questo, diciamo, questa voglia di fare cose sempre per la gente bisognosa. E a me farebbe molto, ma molto piacere farlo, e lo sottolineo perché ne fa molto piacere. Allora mi sto trattenendo un attimo e ti do subito quella cosa, nel caso aspetta un attimo. Mi fa anche piacere che nel canale 10, fra l'altro, stiamo arrivando tutti a una schioppettata. Complimenti per questa modulazione, Falchè, perché devastante davvero. Chi è quell'indirizzo? Io faccio del mio piccolo e del mio possibile per poter modulare come Dio comanda e come mi ha insegnato il grande Claudio Soaviero. La modulazione deve essere perfetta, chiara e limpida, se non ha senso essere attaccati lì all'apparato a far ascoltare, insomma, cose che non vanno bene. Oddio, nel mio piccolo io posso fare quello che posso fare, poi seguito, ma ce ne contentiamo del piccolo, vai con me. Guarda, adesso non è per rincarare la dose, però ti dico che è una modulazione degna di un Kenwood quella che hai, ma con i contro, con i controgazzi, come si suol dire, hai una radio super 5, ma a bomba, tant'è vero che qua per il segnale che stai arrivando di radio credo di avere lo smitter un po' avaro, perché stai arrivando a 9.20, però secondo me c'è anche qualcosa in più, adesso non so cosa c'hai sotto, però guarda, 10 e lode, davvero, stai arrivando una bomba, chiedo conferma anche al Barracuda. Sì, ma infatti gliel'ho detto appena l'ho chiamato così per caso sul 10, ho sentito, ma cos'hai fatto tuo zio Falchè? No, perché? Niente, normale, io se fregai in aranno, tutto normale, che c'è qualcosa che non va, e sta lì a tirargli le parole da bocca con la pinza, e poi mi ha detto che ha fatto una piccola modifica al microfono e vedo che si è assillata abbastanza, va. E niente, no, a me piace anche a me, però giustamente abituata all'altra ti accorgi un pochettino il distacco, comunque è bella lo stesso, senza nessun problema. Chiara, però firmi così tanto, quella è più chiara, la mia o quella di zio Falchetto? No, veramente se c'è una chiara, quella è la mia, comunque è assolutamente più chiara quella di Falchetto. È più grintosa, capite? Più ruggente, la tua è più ovattata, bella lo stesso, però lui è, adesso c'era un po' la Claudio Sparviero, capito? Ho capito, e adesso invece com'è così? La tua adesso sarebbe allo stesso modo se fosse, se avesse più acuti, però hai troppi gravi. Il problema, noi stavamo facendo un discorso un paio di giorni fa sui microfoni. I microfoni hanno una frequenza di pescaggio, mettiamola così. Le persone che hanno la voce grave devono prendere microfoni che hanno il pescaggio, fammi passare il termine, sugli acuti. Cioè riescono a percepire di più gli acuti, perché se percepiscono i gravi alla fine ti viene la voce impastata, quindi devi riuscire a trovare un giusto equilibrio. Tu che hai la voce molto grave dovresti trovare dei microfoni che hanno una frequenza alta. Ho capito, va bene, qualche a te il primo posto, pazienza, ci ho provato. Guarda, nel passaggio che hai fatto mi sono leggermente spaventato, mi si è alzato il pelo, però diciamo che non è malvagia, però in effetti confermo quello che dice anche il Lode, perché dovresti trovarti qualche microfono ovviamente per le tue, diciamo, corde vocali, ecco tutto lì. Secondo me il tuo microfono sarebbe questo che sto usando io, l'MC-60, se tu provi la modulazione Kenwood diventeresti devastante. No, capito, no, adesso io per dire, in questo dettaggio, tu qualche il MC-Gain a che poi numerazione ce l'ha? Adesso in questo momento l'ho messo a 10, per 10 il dettaggio è al massimo il MC-Gain dell'apparato. Tutto al massimo perché va bene così. Mi hanno fatto un controllo lì, la torre di controllo mi ha detto lascia tutto com'è che sta andando troppo bene. Io infatti volevo rivolgere un'interrogativa a Grote, nel senso che se sentiva disturbi come sentiva stasera. Assolutamente no, ma questo te lo dissi già da quando a un certo punto hai saldato i cavi, ho detto va fatta, blocca tutto così che è perfetto. Adesso non sento più niente, inneschi, cose del genere che avevi dietro, niente, perfetto, hai una modulazione 10 e lode. È positivo, vedi, anche se mi hanno dato dei consigli di mettere fili finiti, filoni, dai, se c'è qualcosa vuol dire che c'è qualcosa che non va, capito? Io mi sono accorto una volta che ho aperto e lì c'era tanta di quella Macedonia che ne bastava la metà, allora abbiamo preso, abbiamo smontato tutto, rifatto i cavi nuovi e vedrai che la cosa è positiva. Poi io, come dicevo, adesso dico una cretinata, ma non è così, la spiego anche il concetto. Per me è migliore un microfono ZG MB più 5 MB più 4 di un Kenwood, perché se mettiamo la qualità rispetto al prezzo, è vero, allora questo qua è il non plus ultra per quanto riguarda determinati apparati, non v'è dubbio, però quello lì si avvicina molto. Se consideri che costa un quarto, perché costa un quarto esatto di quanto costi questo, obiettivamente con gli stessi soldi ti compresti un MB più 9, se non anche qualcosa di più te ne compresti due. Comunque sostengo che è una bella spesa e si accoppia davvero bene quel microfono, o meglio, quando si accoppia bene diventa una bomba. Si conferma. E questo è normale, ci mancherebbe che un microfono che costa 180 euro, non sia un microfono con i controcusi. Poi parliamo di Kenwood, che è una fabbrica che ha sempre fatto che cosa? Sistemi hi-fi e tutte cose che trattano comunque la voce, la musica, quindi non stiamo parlando di una fabbrica come può essere Lafayette, Intec, che fanno sì ricetrasmittenti, ma non fanno certamente qualcosa di come gli hi-fi. La Kenwood è Kenwood, è un nome soprattutto per quanto riguarda quello. Sì, lo fermo. Vai a Torino, riprendi. E gli ha proprio cosa belli quello che vuole Kenwood, come quello che ho visto un po' di giorni fa. Però cosa ho sentito che non si usa nei finali, costano 7 figli quanto va parato. I finali del Kenwood è molto difficile bruciarli, perché è un apparato che va in autoprotezione, nel senso che li puoi leggermente consumare, gli puoi creare qualche problema a lungo andare, però bruciarli così dall'oggi al domani è molto difficile, perché ti ripeto, va in autoprotezione, quindi ti si spegne. Ho capito, ma se non sei ritornato dovrebbero venire sui 140 euro l'uno. E quanti finali trovo questo apparato? Aspetta, quelli che stai dicendo tu sono i finali MOSFET, che costano una barca di soldi, però ti danno delle ultime prestazioni. Quelli normali non costano così tanto, costano, costicchiano, ma non così tanto, assolutamente. Aiuta addirittura, devono stare, diciamo, con loro giustamente con i guanti, come qualsiasi cosa, ma fatto sta stranamente che Kenwood o non Kenwood, qualsiasi altro apparato esiste in commercio, anche come questi semplici baracchini, quello che funzionano bene, poi trovate, diciamo, darmi, sai, una piccola ritocatina per il trubuso di modulazione, dunque, anche se costano di meno, credo che hanno anche questi qui delle ultime prestazioni. Sei tutto impastato però con questa modulazione, sei tutto non si ne comprende nulla. Guarda se va bene adesso. Questa è la tua modulazione, va benissimo. Perfetto, io ho in mano foglia e penna, pronto? Aspetta un attimino, te lo sto ricercando, attimo, te lo dico, allora sì, un attimo, allora, sentimi un attimino, è Cobet SRL, via Mario De Candia 6, 07100 Sassari, ti do anche il telefono che è 260615. Ti ho detto come comportarti nel caso fai riferimento al mio cognome. Scusa un attimo, ho scritto via, poi ho scritto callback, poi hai detto troppo veloce, non riesco a scrivere così. Sei come dei carabinieri quando scrivono una cosa a macchina, aspetta un attimino che mi ricentro, che sono andato un attimino fuori, aspetta. Non mi devi dare due secondi, no? Io lascio un attimo il mio, giustamente, se riprende Antonio Rode. Un attimo, sto cercando di centrare l'apparato, un attimo. Ok, fatto. Allora, sei pronto? Cobec SRL, via Mario De Candia, numero 6, 07100 Sassari. Il numero di telefono è 079 26 26 ti ripeto 079 26 06 15, però te lo ripeto perché adesso è passato la pagina, non so, quindi è 079 26 06 15. confermo. Sì. Un attimino, Allora hanno 21 punti vendita con l'ultimo aperto. Aspetta a vedere se dice qualcosa a proposito di affanculo. Questo computer non serve una minchia secca, scusando la parola. Di vendita, promozione, se a casa una... Allora, quindi ne ha 21 non dice altro qua. Comunque via Leccandia dovrebbe essere a Predanienda, se non sbaglio. Anzi, una traversa di via Le Porto Torres, mi dicono qua. Via, scusami, via Mario Leccandia, numero... Sono le giugno, misellende, numero 6. È perfetto, allora una traversa di Viale Porto Torres, ma una traversa a quale? Se siamo in Viale Porto Torres di fronte a Troni sulla destra, oppure dopo il ponte che poi ti porta all'Alte Dolci? Sicuramente no, sulla parte destra che risulta dove c'è diciamo l'altra entrata di Città Mercato. No, molto prima. Allora è praticamente dal ponte, quindi giri per la Tana, quindi il primo tratto di Viale Porto Torres. Ah, ho capito. Diciamo, vabbè, non è una traversa. Nel punto che mi stai dicendo tu è proprio, diciamo, l'inizio di Viale Porto Torres, cioè leggermente più avanti della Tana, in quella zona lì mi hai detto, giusto? Quella è via Mario Leccandia. Di mobili rimane ad angolo, fa ad angolo alla fine, dovrebbe essere quello, se sto cercando di capire. In poche parole, se io per esempio prendo prendo il cimitero, diciamo, perché il cimitero c'ha una, due entrate, se io prendo proprio nella zona vecchia, se c'è presente il cimitero, c'è una zona vecchia con un'entrata, dovrebbe essere quella lì la zona. In realtà rimane un po' dopo il cimitero, più o meno a metà di Viale Porto Torres, se non ti puoi sbagliare, c'è scritto proprio via M. Leccandia, tu entri in questa traversa, che tra l'altro è una traversa piccola, non pensare che sia una grande via, come giri te lo ritrovi il cancello sulla destra, da una cancellata bianca col videocitofono. Ah, direttamente lì, ho capito, va bene. Quello non male, già si riesce a provare, quando c'è la via, il numero civico, il numero 6, non c'è da sbagliare. Penso che si dovrebbe essere aperto domani che è sabato. Approfitto di salutare a Policina, salutone Policina, ben ascoltata e ben ritrovata. Grazie Falchetto, non so se c'è qualcun altro in rosa che ho dimenticato, dimmi tu se c'è qualcun altro che non ancora l'ha salutato. No, siamo solo noi, siamo i tre, dell'Apocalisse. Non parlare della Nigalli. Il problema è che poi perdo la pazienza. Stavo dicendo, a proposito, la torre di controllo. C'è qualcuno che chiama, Sì, dovrebbe essere Domenico. Domenico, sei tu? Poi Domenico, dopo la Maria, l'hai ben ascoltato, ben entrato, E dove te la ritrovi in questo momento? Positivo è Carparosa, in compagnia di Antonio Grolle, Pollicina e Antonio Di Vossi, Andate per i saluti a Domenico. KK, non ti avevo riconosciuto, ben sentito, ben ascoltato, è sempre un piacere modulare con te. Dimmi una cosa, beh, com'è andato? Tutto bene? E come ci stava? Com'era il tempo? Cavaliere Roger, dai. Avanti Antonè per Domenico. Eia, buonasera. Domenico Antonio Barracuda, modulazione Ussilandia, ben sentito. Roger, credo ci sia un attimino allontanata, comunque sì. È cambiata al centro. Avanti, riprendi la Barracuda, E niente, segnato tutto, vediamo un po' domani com'è, dai. O nel caso ti faccio sapere, due minutini. Ancora ti abbi domani, presto. Temo. Senti un attimo, ma come mai oggi? La torre di controllo, non ho capito dov'è. Oggi sicuramente non è a buio, è stanco, o farà lavorando. Secondo me c'ha le orecchie pelose oggi, Per quale motivo? Si dice areci di moku quando si fa radioascolto. Ah, può darsi. E chi lo sa, 50 e 50. Hai idea, piano piano. A quest'ora non credo, Non è così notturno. Giustamente c'è la sua età, deve riposare. Ma stasera infatti ci siamo festeggiati. Sono passato un attimino, mi dovevo dare una cosa e siamo andati. Vabbè, l'ho convinto, lo sentivo un po' su dei giri e ho bisogno di ferie, ragazzo. Dunque lo stai portando nella cattiva strada? Nell'oblio della bicicletta. Beh, dovrà valutare lui, già è grande. Cosa vuoi che ti dica? Comunque, qualche. Avanti che ti sento messo da parte. Ciao, stavo ascoltando il vostro discorso. Ma niente, avevo lasciato un po' in bianco Domenico. Vai avanti Domenico, dove sei arrivato? Mondo. Sì. Positivo è che a Parosa, dai, ci metti lì da parte tua. Ma devi fare due viaggi dove? Positivo, ti manda saluti il tuo collega, Daniele. Daniele, ti manda saluti. Positivo, infatti, ma ci siamo sentiti stasera, metto in figlia, la grande. E se dovessi sentire Domenico, dice salutamelo. E niente, tutto qua. Positivo. Beh, io vi saluto, che mi preparo per domani. Buon proseguimento di serata e buonanotte Domenico, zio Falchetto e Antonio, nel caso ci sentiamo domani. Ok, dai, Antonio, fai un buon 144, non lo fai. Saluto a te, QRA rispettivo, QRA familiare, dai. E ci si ascolta, vai grazie. Non ho avuto il piacere di sentire Radio di Sole, dove? E il Radio di Sole non sta bene oggi. Mi dispiace, un po' dire i miei saluti e spero di riascoltarla presto, Buon QRT, buon 144 e fammi sapere per domani mattina com'è andata. Sai come comportarti, nel senso fai pure, sfrutta e abusa di quel nome che ti ho detto. E io vediamo un po' cosa esce fuori. Niente di, speriamo un po'. Guarda, non desistere, anche se dovessi dare la prima non andare bene, perché una persona mi ha detto gli ha parlato 6 volte, però la sesta volta l'ha fatta arrestare. No, sto scherzando, la sesta volta l'hanno assunto. Lo so, e quanto tempo è passato dalla sesta volta? Ti ha portato un giorno dietro l'altro per 6 volte? No, una settimana dietro l'altra, come vedevano, lo chiamavano, andava lì, bum bum, e suonava. Capito? Mai desistere, assolutamente. capito, facciamo così allora. No, io ti auguro che non vada così, nel senso che a una, cioè questo qua era nessuno presentato a nessuno, diciamo che tu non scivolo ce l'hai, dai. Sempre sperando giustamente a chi lo consiglio che non faccia lo stronzo la stronza, perché capitano queste cose, dunque rimane sempre quel punto di domanda, sì ci penso io, poi bisogna vedere se veramente viene consegnato, attenzione, perché c'è delle probabilità che può capitare, non voglio essere pessimista, però sai, nel mondo in cui si vive ti puoi aspettare di tutto, ecco cos'è il discorso. Guarda, ma tu fatti il furbo, tanto cosa c'hai da perdere? A questa persona gli dici, alla persona a cui lo lasci, questo è quello che stava aspettando il signore da parte di, io sono da parte di, tu dici che lo stava aspettando il signor Capoccia. Perfetto, fa la cortesia, ce lo puoi dire il nome, come si chiama il tipo? Se me lo puoi dire in radio, se no domani al telefono. Visto che abbiamo parlato di Cobec e abbiamo parlato di 21 punti vendita, non credo che sia un segreto dire che stiamo parlando di Rinaldo Carta. Va bene, faccio così, allora va, poi domani ti tengo presente della situazione. Va bene, buonanotte a tutti, ci sentiamo domani allora, buon proseguimento. Ciao, a domani, dai, ciao ciao. Avanti, perché? Anzi, domani, vai, prendi tu. Bene. No, domenica, domenica, seconda bocca. Hai sentito, Claudio? No, l'ho sentito poc'anzi, ripeto, e mi aveva detto che era tutto acceso, e poi riprendevo, ma segno niente che la stanchezza, le pompe, è tutto lì. L'ho detto, ci organizziamo, gli ho detto, guarda, se non hai voluto andare lì a prendere le canne, non so dove ce le abbi, le canne da pesca, poi sta andando di traverso, gli ho detto ci organizziamo una di quelle sere, andiamo a pescare il tuo falchetto, ce ne andiamo alle rocce di Balai, oppure direttamente alla spiaggia di Platamona, ci compriamo quelle tre canne di quelle usaggetta, la cosa dalla Decathlon oppure dai cinesi, in modo tale che come ci siamo stancati le regaliamo anche. Ciao, va bene. Facciamo una serata diversa, diciamo quattro cazzate, ci beviamo un paio di birrette e ce ne torniamo allegri, curti e contenti. Sì, ciao va bene. Domenica sì. Per il QSO e ci sentiamo alle prossime, perché domani sicuramente mi dovrò svegliare abbastanza presto, quindi è bene incombe 144, ben sentito Qualchetto, ben sentito Domenico, buon proseguimento, io sono qua un attimino in QRX e dopodiché QRT per me, il grode ha modulato, riprendi Qualchetto positivo e capparoggio, io ti auguro un buon 144, non lo fai un po' tutto e ci si ascolta a domani se coincide, vai a lui. Thank you. Va bene, dai, anche io mi approfitto a fare un 244, e domani mi devo alzare il peso. Dove ti saluto e ci si aggiorna tutta domani, dai, se Dio vuole. Tutta domani, dai, io chiudo le trasmissioni e ci si aggiorna domani. Ciao, fate la buona.